principe Baiaia e il suo cavallo magico. Molto tempo fa, in una terra lontana, la regina di un pacifico regno diede alla luce due gemelli. Vi furono grandi celebrazioni a corte, mentre il re stava ancora combattendo. Ma la notizia viaggiò velocemente. I bambini crebbero ed il primo nato era piuttosto dell'altro e andava fuori a giocare ogni volta che poteva. Suo fratello, d'altro canto, preferiva giocare al chiuso e stare sempre attaccato alla madre. Usciva solo quando seguiva la regina in giardino. Per questo motivo, il principe più giovane divenne il preferito della madre. Qual è il più vecchio, amore mio? La regina sapeva che lo stava chiedendo perché il più vecchio sarebbe stato il primo erede al trono. Molto bene, allora. Quando sarai maggiorenne, diventerai re. Will rimase deluso nel sentire che suo fratello sarebbe diventato re. Diede così tutto il suo amore al suo cavallo. Voglio vedere il mondo, sperimentare nuove cose. Sono così stanco di sentir dire che mio fratello sarà re. E con sua grande sorpresa... Dal momento che non sei felice a casa, vai e scopri il mondo. Il piccolo cavallo parlò con voce umana. Com'è possibile che tu possa parlare? Ah, non chiedere, non posso dirtelo. Sarò tuo amico e consigliere finché mi obbedirai. Ma non andare senza il permesso di tuo padre. Parti da solo e non cavalcare altri cavalli all'infuori di me. Lo prometto! Lo prometto! Il principe implorò ed implorò il re, ma non era disposto a vedere suo figlio partire. Non era disposto a lasciarlo andare via. Dopo alcune convincenti parole della regina, il re cedette. Ma il re voleva comunque che il principe partisse in un modo che si addice al suo grado, con una grande compagnia di uomini e cavalli. Ma perché ho bisogno di una simile scorta, padre? Lasciami avere un po' di soldi e io cavalcherò il mio cavallo. Ancora una volta, il principe dovette discutere e pregare fino a che alla fine ottenne quello che voleva. Per favore, prometti di tornare entro un anno o di inviare notizie sulla tua posizione. Lo farò, madre. Addio a tutti! Il piccolo cavallo iniziò a trottare a velocità sorprendente considerata la sua vecchiaia. Ma questo non era un cavallo normale. Gli anni non lo avevano fatto invecchiare nemmeno un po'. Il suo mantello era lucido e le sue gambe erano forti. Non importa quanto lontano avesse viaggiato, era sempre fresco come un cerbiatto. Andiamo a visitare quella città. Ci andremo. Andrai da solo nella città vicina e fingerai di essere stupido. Stupido? Non posso essere uno straniero affascinante? Non dovrai mai tradirti. Presentati al re, così ti metterà al suo servizio. Quando avrai bisogno di qualcosa, dovrai venire alla roccia, bussare tre volte e questa si aprirà. Va bene, mi travestirò. Il principe si presentò al re. Si travestì bendandosi un occhio e rese il proprio volto pallido e giallastro. Il re guardò il patetico principe con simpatia. Il re, provando pietà per la sua giovane età e per la sua stupidità, lo mise al suo servizio. Il principe dimostrò di essere molto capace. Non passò molto tempo prima che il re gli desse la gestione della casa. Parlava con le domestiche e dava persino consigli al re. Correva da una parte all'altra del castello. Tutti gli volevano bene e presto iniziarono a chiamarlo Baiaia perché era l'unico suono che faceva. Baiaia! Il re aveva tre figlie, una più bella dell'altra. Zdobena, la più vecchia, Budinka e Slavena, la più giovane. Il principe amava stare con loro e siccome doveva fingersi sciocco e brutto, il re non fece obiezioni al fatto che passasse del tempo con loro. A loro piaceva e lo portavano sempre ovunque andassero. E a lui piacevano, ma più di tutte preferiva Slavena, la più giovane. Tutto ciò che faceva per lei era fatto leggermente meglio che per le altre. Le ghirlande erano più ricche, i disegni più belli. Zdobena e Budinka prendevano in giro Slavena, ma lei non faceva caso alle battute o alle attenzioni in più di Baiaia. Un giorno, Baiaia vide che il re era triste e usando una specie di linguaggio dei segni gli chiese quale fosse il problema. «È possibile, mio caro ragazzo, che tu non conosca l'incubo che ci minaccia?» Anni fa, tre draghi giunsero volando e si posarono su una grande roccia nelle vicinanze. Il primo era a 9 teste, il secondo a 18 teste e il terzo a 27 teste. Devastarono il paese, divorando il bestiame ed uccidendo la gente. I draghi attaccarono la città, bruciando tutto. Per placarli, mettemmo tutto il cibo che avevamo fuori dai cancelli. Ma ben presto stavamo morendo di fame. In preda alla disperazione, feci venire una vecchia saggia e le chiesi se c'era un modo per cacciare questi mostri dalla nostra terra. Ahimè, il modo c'era! Promettere ai mostri di prendere le mie tre bellissime figlie quando avrebbero avuto la giusta età. A quel tempo, le mie figlie erano solo bambine piccole. Quindi, per salvare la mia terra, promisi ai draghi le mie figlie. La mia povera regina è morta di dolore, ma le mie figlie sono cresciute senza sapere nulla del loro destino. Una volta raggiunto l'accordo, i draghi volarono via. Fino a ieri non si fecero più sentire. Fino alla scorsa notte, quando è giunta la notizia che i draghi si sono di nuovo sistemati nella loro vecchia roccia, facendo ruggiti spaventosi. Quindi domani dovrò sacrificare la mia figlia maggiore. Dopodomani la seconda e poi la più giovane. A quel punto verrò lasciato vecchio e solo e senza più niente. Baiaia raccontò la storia delle figlie del re e del drago. Lo so, è per salvare le principesse che ti ho portato qui. Non capisco. È il tuo destino. Domani mattina presto torna e ti dirò cosa fare. Oh, grazie, piccolo cavallo. Baiaia era così pieno di gioia che dovette nascondere la faccia per assicurarsi che il suo travestimento non venisse scoperto. Solleva la pietra sotto la mia mangiatoia e tira fuori ciò che trovi. Tutti e tre gli abiti sono per te, ma oggi indosserai quello rosso. Ma io non sono un cavaliere. Non aver paura. Uccidi coraggiosamente il mostro, affidati alla tua spada e ricorda, non scendere mai a terra. Dio, dobbiamo tornare subito da nostro padre per fargli sapere la novità. Domani sarà il mio turno. Mi chiedo se questo cavaliere apparirà anche per me. Sebbene fossero ancora terrorizzate dal loro destino, la speranza era tornata in loro. Baiaia riuscì persino a farle ridere. Baiaia ballò con gioia, rassicurando le altre due sorelle che anche loro erano al sicuro. Baiaia apparve di nuovo come il cavaliere sconosciuto, questa volta con il pennacchio bianco. Attaccò il drago con 18 teste e dopo un altro coraggioso sforzo lo mandò a terra. Un'altra battaglia, un'altra vittoria sorprendentemente facile per Baiaia. Stavi indietro per non parlare al cavaliere prima che partisse. Domani, se mi salverà, mi inginocchierò davanti a lui e non mi alzerò finché non accetterà di tornare con me al castello. Che cosa c'è, Baiaia? Sì, domani andremo tutti ad incontrare questo misterioso cavaliere. Baiaia non poté rifiutare, specialmente con Slavena, che inginocchiata davanti a lui si stringeva il bordo della veste guardando con sguardo davvero affascinante. Il suo cuore si sciolse e fu pronto a fare qualsiasi cosa lei gli avesse chiesto. Ma perché hai fatto così? Non dovranno mai conoscere la tua identità. Slavena e il re furono molto delusi dalla frettolosa ritirata del loro salvatore, ma presto tornarono a rallegrarsi per come le cose fossero andate. Poco dopo, un re molto potente dichiarò guerra. Il re mandò un messaggio per convocare tutti i nobili del regno. Molti coraggiosi nobili ora stavano di fronte al re. Il re promise loro la mano delle sue bellissime figlie in cambio del loro aiuto. Questo fu un grande stimolo. Ogni giovane nobile presente giurò fedeltà e si precipitò a casa per radunare le sue truppe. Le truppe arrivarono da tutte le parti e presto il re fu pronto a partire. Il re guidò il suo esercito in battaglia e, come al solito, lasciò gli affari del castello nelle mani di Baiaia e gli affidò la sicurezza delle tre principesse. Baiaia fece il suo dovere fedelmente, badando al castello ed organizzando svaghi per tenere le principesse felici ed allegre. Un giorno si lamentò di sentirsi male, ma invece di consultare il medico, disse che sarebbe andato nei campi a cercare alcune erbe medicinali. Le principesse risero di lui, ma lo lasciarono andare. Il piccolo cavallo non perse tempo. Le forze del re sono deboli ormai. Domani verrà deciso il loro destino. Indossa il vestito bianco, prendi la tua spada e andiamo. Baiaia colpì a destra e a sinistra in mezzo ai nemici e causò un tale caos che le forze del re furono immediatamente rincuorate. Riunendosi attorno al cavaliere bianco, combatterono così valorosamente che presto il nemico fu sconfitto e si ritirò. Quella del re fu una mitica vittoria. Per favore, cavaliere coraggioso, vieni con me alla mia tenda e festeggiamo per la vittoria. Grazie, mio re. Ma non posso. Quando le principesse sentirono che il cavaliere sconosciuto era tornato e aveva salvato la battaglia, non vollero diventare le spose di nessuno dei nobili, perché credevano che il cavaliere sarebbe andato a chiedere una di loro in sposa. Miei cari compagni d'armi, ho promesso di concedere a coloro che mi hanno sostenuto in battaglia le figlie in matrimonio. Tutti voi avete dato un valido sostegno. Ognuno di voi merita la mano di una delle mie figlie. Ma, ahimè, ho solo tre figlie. Per decidere chi di voi dovrà sposare le mie figlie, faremo nel modo seguente. Mettetevi in fila in giardino. Ognuna delle mie figlie getterà una mela dorata dal balcone. Ogni principessa sposerà l'uomo verso il quale la mela sarà rotolata. Quella notte vi fu una grande festa, ma Slavena rimase nella sua camera rifiutandosi di comparire tra gli ospiti. Il piccolo cavallo portò il suo padrone per l'ultima volta. Quando raggiunsero il castello, Baiaia scese da cavallo, baciò il suo fedele amico, gli disse addio ed il piccolo cavallo svanì. Baiaia vorrebbe parlare con te, principessa. Sei così arrabbiata con il tuo sposo che ti nascondi da lui? Non sei il mio sposo. Baiaia è il mio sposo. Ma io sono Baiaia. Io sono lo sciocco che ha composto le ghirlande, il cavaliere che ha salvato tu e le tue sorelle e aiutato tuo padre in battaglia. Vedi? Ecco il pezzo del mantello con cui tuo padre ha legato il mio piede ferito. Quando tutto fu chiaro, il re si rallegrò. Gli ospiti si meravigliarono e Sdobene e Budinka si guardarono l'un l'altra piene di invidia. Dopo il matrimonio, Baiaia e Slavena andarono a visitare i genitori di lui. Quando raggiunse la sua città natale, tutti furono felicissimi del suo ritorno, perché lo avevano dato da tempo per morto. Dopo un po' di tempo, Baiaia divenne re e visse una vita lunga e prosperosa con sua moglie.